Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Per quello che riguarda la politica interna, oggi ci occuperemo di nuovo del tema dei cosiddetti braccianti agricoli. C'è stata e c'è ancora un po' di tensione nel governo, sembra che si vada verso una soluzione di una regolarizzazione, chiamiamola così, temporanea per tre mesi, ma ne parleremo. Ma parleremo oggi soprattutto non del fronte politico, abbiamo già raccontato ieri anche delle tensioni tra Italia Viva e il resto e anche i 5 Stelle, ma soprattutto per quello che riguarda la situazione sul campo, è proprio il caso di dire, visto che parliamo di agricoltura. Ancora, sempre in tema di imprese, ma questa volta imprese manifatturiere, ci occuperemo dell'accordo, di due accordi, nell'area probabilmente più colpita a livello italiano e anche una delle più colpite a livello europeo. Mi riferisco all'area di Bergamo, perché c'è stata un'intesa siglata tra Confindustria Bergamo e importantissimi gruppi bancari, Banco BPM, Intesa San Paolo, UbiBanca e Unicredit, per andare a un finanziamento alle imprese più snello e veloce rispetto a quello che si sta riuscendo a fare con il decreto liquidità per le imprese. E dall'altro segnalo che ci sono anche altri accordi fatti tra, per esempio, il Comune di Bergamo e Intesa San Paolo. Hanno messo in campo il programma Rinascimento, 30 milioni per le micro imprese, quindi non, nemmeno piccole. Piccole e medie. E poi parleremo anche della fase 2, intesa come anche oggi ci sono varie indiscrezioni, le regioni che spingono, alcune regioni che spingono per riaperture anche prima del 18, magari l'11. Zai ha detto siamo pronti, governatore del Veneto Zai, siamo pronti prima di tutto anche prima del 18 maggio, il 1 giugno è una data inopportuna per la riapertura. Toti ha detto che dopo l'incontro con il governo delle regioni, la conferenza delle regioni ha approvato un documento che chiede che fin dal lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio a dettaglio e che dal 17, quando la norma decada completamente, e si vada sostanzialmente a una riapertura completa. Per quello che riguarda invece la posizione del governo, il ministro Boccia ha detto dall'11 maggio, guardando i dati del Ministero della Salute sul contagio e in base a quelli, potremo stabilire che dal 18 maggio in alcune regioni, quindi con differenziazioni regionali, si possa aprire anche in base appunto alle linee guida dell'INAIL. Di questo insomma, parleremo con chi fa parte anche della task force cosiddetta, quella non scientifica, diciamo, quella tecnica per la fase 2. Mi riferisco a Enrico Giovannini, la task force, quella diciamo, che è guidata da Colao. Per quello che riguarda invece le borse oggi, segnalo sì ancora qualche tensione polemica dopo la famosa decisione della Corte Costituzionale tedesca. Giustamente, a mio avviso, la Francia oggi, tramite il ministro dell'economia Le Maire, ha detto che insomma la BCE non risponde alle singole corti nazionali, e vorrei anche vedere, aggiungo io, da un organismo indipendente, e che l'unica cosa che fa testo è la Corte di Giustizia Europea. Questo per raffreddare anche ipotesi, diciamo, di una in qualche modo sostanzialmente commissariamento, forse è troppo forte, ma dei paletti messi da una corte per quanto importante come quella tedesca, ha un organismo che non è sicuramente nazionale come la Banca Centrale Europea. La Francia è il secondo paese per acquisto di titoli di Stato da parte della BCE dopo l'Italia, quindi anche lei è seriamente, giustamente preoccupata che la sentenza tedesca, pur riferita al periodo di Mario Draghi del 2015, vada a frenare iniziative della Banca Centrale Europea o comunque vada a frenare l'autonomia della Banca Centrale Europea stessa. I mercati, dicevo, oggi sono, per quello che riguarda Milano, piatti, invariato l'indice. Parigi più 1,30, Francoforte più 1,10, Londra più 1,20, Dow Jones più 1,30%. Perché Milano è piatta? Perché se vanno bene Nexi più 3,80, Moncler più 2,80, Enel più 2, come Saipem e Recordati, l'1,80 lo guadagna Exor, l'1,20 Tenaris, ma anche Steam Microelectronics e Banca Generali. Vanno male alcuni titoli anche bancari. Allora, CNH meno 3,5, Biper Banca meno 3,30, Intesa meno 2,5 come Unicredit, Telecom meno 2, Amplifon meno 1,80, Era meno 1,30 come il Banco BPM e Prismian. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Qualcuno mi dice non ci faccia preoccupare, la sentiamo con un po' di fiatone, no, forse ho corso per arrivare qua tra guanti, copri microfono, mascherine, forse per quello, ma no, cosa devo fare, segnali scaramantici? No, andiamo con le notizie in breve. Come sempre partiamo dalle notizie di carattere internazionale. L'ONU stima che il turismo potrebbe crollare quest'anno, il numero complessivo di arrivi internazionali potrebbe precipitare dal 60 fino all'80%, è la peggiore crisi dal 1950, non so perché dal 50, forse perché da lì abbiamo le statistiche, ma detto questo, è chiaro che tutte le previsioni sul turismo, io continuo a dirlo, alcuni settori dovranno andare a essere aiutati in maniera massiccia, che non vuol dire far entrare lo Stato nel capitale. Parleremo anche di questo, c'è stato un chiarimento dopo quella frase, a mio avviso un po' improvvida, del vice segretario del PD Orlando, ex ministro della giustizia, sull'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese. Manca solo che lo Stato entri nel capitale delle imprese. Altra cosa è aiutare le imprese che erano sane prima e che in questo momento sono in ginocchio a traghettare questo periodo. Poi alcune ce la faranno perché il mercato le consentirà di ripartire, altre, soprattutto nel settore servizi e soprattutto nel settore servizi turistici, quindi non solo alberghi, ristoranti, ma tutto quello che è connesso, dovranno essere aiutati in maniera ancora più massiccia. Però questo si potrà vedere, spero, nel dettaglio, spero con competenza e con un'analisi accurata, non tanti ragionamenti così filosofici che sento in giro, e poi ci occuperemo della filosofia. Intanto cerchiamo di traghettare il mondo delle imprese e fare in modo che quando questa emergenza sarà finita esistano ancora queste imprese. Ripeto, parlo del commercio non perché la manifattura sia meno importante, ma perché mi auguro che la manifattura possa poi riprendere quote di mercato, mentre il commercio, che è legato anche a atteggiamenti culturali, a consumi culturali, pensate bar, ristoranti, probabilmente, anzi con molta probabilità, avrà una sofferenza prolungata rispetto ad altri settori. Arrivo anche, visto che parlavo del commercio, alla multa ai commercianti. Allora, però fatemi dare altre notizie di carattere internazionale, perché la Cina nel frattempo ha registrato un balzo del surplus commerciale, più 3,5% l'export, e le vendite di auto hanno fatto più 0,9% ad aprile, quindi la Cina lentamente sta ripartendo, ma noi siamo contenti per questo, siamo meno contenti della comunicazione che arriva dalla Cina, l'assenza di trasparenza. Adesso c'è tutta questa polemica sui mondiali, quelle Olimpiadi militari fatte a ottobre, se non ricordo male, e Io non so se da lì, però alcuni atleti hanno segnalato dopo quei mondiali militari di aver avuto problemi respiratori e polmonari, e continua questa assoluta incertezza che la Cina non sta non solo aiutando a chiarire, sta anche complicando le cose su quando il virus ha iniziato a circolare, anche perché poi tutte le ricostruzioni che stiamo facendo parlano di primi casi a dicembre, adesso siamo arrivati a dicembre anche in Europa. Adesso si ipotizza ottobre, non è una differenza da poco, perché più aumenta il tempo in cui il virus stava circolando, più aumenta, a mio avviso, anche la responsabilità della Cina di non averci messo in guardia. Fermo restando che poi anche quando ci ha messo in guardia è stata molto molto così tranquillizzante, inutilmente tranquillizzante. Andiamo avanti. Per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, oggi Christine Lagarde, la Presidente, ha detto la BCE continuerà a fare qualsiasi cosa necessaria per perseguire il proprio mandato anche dopo la sentenza dei giudici costituzionali tedeschi. Proseguiamo indisturbati, ha detto la Lagarde. Siamo un'istituzione europea con competenza per l'area euro, sottoposta solo alla giurisdizione della Corte di Giustizia Europea. Se ne facciano una ragione anche i tedeschi e la Corte Costituzionale tedesca. La Gran Bretagna, la Banca d'Inghilterra stima un crollo del PIL addirittura superiore a quello dell'area euro e anche di quello italiano, greco, francese o spagnolo. Insomma, abbiamo visto le stime ieri intorno al 9,5% del calo di Spagna e Italia previsto dalla Commissione Europea, l'8,5% in Francia. La Banca d'Inghilterra stima che il crollo in Gran Bretagna potrebbe essere fino al 14% del PIL nel 2020, con un meno 25% senza precedenti nel secondo trimestre dell'anno, poi un meno 3%, l'aveva già fatto nel primo trimestre, e ipotizza un po' di rimbalzo nella seconda metà dell'anno. Come va la produzione industriale? In Germania fa meno 9%, gli analisti si attendevano un calo minore, meno 7%, in Francia è crollata del 16% e anche qui gli analisti si attendevano un meno 13%. La perdita di Air France KLM è di 1 miliardo 800 milioni nel primo trimestre. Per quello che riguarda invece Lufthansa, il governo di Berlino starebbe entrando nel capitale con un 25% e quindi 9 miliardi di euro. E poi veniamo ai dati invece italiani. Le vendite al dettaglio a marzo hanno fatto meno 20% in valore, ma il dato secondo me è ancora sottostimato. I beni non alimentari hanno fatto meno 36% in valore. Beh, te credo era tutto chiuso dall'11 marzo almeno in poi. L'unica cosa in crescita chiaramente l'e-commerce, perché, o meglio, i negozi non specializzati a prevalenza alimentare hanno fatto più 5%, i supermercati hanno fatto più 14%, mentre i negozi a prevalenza non alimentare hanno fatto meno 40%, e appunto, come dicevo, l'unica forma distributiva in costante crescita è il commercio elettronico, l'e-commerce. Ancora, per quello che riguarda le domande al fondo di garanzia, a questo punto sono 103.000, di cui 80.000 e 800 sono riferite a richieste fino a 25.000 euro, con copertura con garanzia del 100% dello Stato per un importo finanziario di 1 miliardo e 700 milioni, mentre il resto, e cioè sostanzialmente 4 miliardi e 300 milioni, riguarda le richieste per liquidità più ampie, quindi si va fino agli 800 mila euro per le piccole e medie imprese, col 10% di garanzia dei Confidi, il 90% dello Stato, e poi c'è anche la possibilità di arrivare fino a 5 milioni. Sempre parlo delle piccole e medie imprese, le grandi hanno invece tutto l'altro canale, che è il canale SACE. Il ministro al turismo Franceschini ha detto, insomma, il settore turismo e cultura deve avere aiuti a fondo perduto. C'è il tema della tax credit vacanza, quindi sostanzialmente permettere alle famiglie, soprattutto a basso reddito in base all'ISEE, di avere un bonus da spendere se si fa la vacanza in Italia, reddito medio-basso, sarà solo per le strutture ricettive. Perché? Perché lì il cliente viene identificato e i suoi dati vengono comunicati alla questura e paga la tassa di soggiorno, quindi per evitare che questo bonus poi venga usato in maniera impropria. Veniamo alla polemica scatenata dall'intervista alla Stampa da il vice segretario del PD Andrea Orlando. Orlando ha chiarito, c'è stato un errore nel titolo dell'intervista del quotidiano: se lo Stato finanzia le aziende deve avere un posto nel CDA, è totalmente privo di fondamento. Ha poi chiarito Orlando: io ho sostenuto che lo Stato non deve entrare nella governance. A volte leggere i testi aiuta, era polemico sul titolo fatto dalla Stampa. Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, rispondendo al question time al Senato, ha detto: lo Stato non entrerà nel consiglio di amministrazione delle imprese. Non è intenzione del governo entrare nei CDA delle società. La libertà d'impresa è un principio costituzionale che questo governo ha bene a mente. È invece necessario agevolare la ricapitalizzazione delle imprese, perché la sottocapitalizzazione del nostro sistema industriale è uno dei problemi atavici delle nostre capacità produttive, che rende difficile anche l'accesso al credito alle imprese stesse, proprio perché sottopatrimonializzate e sottocapitalizzate. E poi all'Italia, visto che parlavamo di Lufthansa e di Air France, allora il capitale iniziale della NewCo all'Italia, della nuova società italiana, non potrà essere inferiore ai 3 miliardi di euro e punteremo sul lungo raggio e cargo come piano industriale. Il capitale iniziale della NewCo non potrà essere inferiore ai 3 miliardi, proprio perché vogliamo dotare quella compagnia di un vero piano di rilancio sul mercato del trasporto aereo. I livelli occupazionali saranno tutelati al massimo, compatibilmente a oggi, con le condizioni di oggi delle compagnie. È chiaro che in questo momento il trasporto è completamente fermo, ma deve essere pronto attraverso una flotta già trasferita come ramo d'azienda in affitto alla NewCo a volare immediatamente, non appena le fasce di mercato si riapriranno, andando a conquistare mercati che oggi erano in sofferenza. Penso ad esempio al piano industriale, che deve puntare fortemente e punterà fortemente sul lungo raggio, anche con eventuali nuovi patti transatlantici, nuove alleanze transatlantiche. Ritengo che il lungo raggio sia uno dei grandi asset su cui investire, così come c'è una valutazione in corso sul potenziamento della flotta cargo. Non c'è un ridimensionamento dell'azienda, anzi, l'azienda ha 113 aerei, ma è da più di un anno che ne volavano meno di 100. La flotta dovrà essere pronta anche a reperire sul mercato nuovi aeromobili, visto che appunto questo momento può essere favorevole per gli investimenti. Stiamo sul concreto, non sto polemizzando con nessuno, però vedo molti commenti in giro di che ne sono, che fanno. Allora, i latini dicevano primum vivere de inde filosofare. Adesso mi sembra che la cosa più importante sia arrivare a trasferire liquidità, prestiti e anche fondo perduto, qualora fosse necessario in alcuni settori, alle imprese che stanno riaprendo o che hanno riaperto. L'Istat oggi ci dice: no, va tutto bene, però c'è un momento nella vita in cui tu puoi ragionare sui modelli di impresa, sulle piccole imprese che devono crescere o quant'altro, e c'è un momento in cui devi sopravvivere, e mi sembra questo il caso. Lo dico perché qualcuno mi sta scrivendo della polemica che ho avuto con Riotta oggi in un programma televisivo, ma no, di tutto si può ragionare, ma c'è modo e modo. Non siamo in un mondo dell'accademia in questo momento, siamo in un mondo in cui bisogna portare la maggior parte delle imprese che prima erano e stavano in piedi con le loro gambe, vorrei ricordarlo a tutti, nessuno vuole salvare imprese decotte, l'unica impresa decotta che si sta salvando non è certo privata e si chiama l'Italia, così chiudiamo il cerchio. Ma qui parliamo di imprese private che prima esportavano o avevano un mercato interno, o erano fornitori o quant'altro, prima del coronavirus, e che adesso devi tenere in vita perché non erano malate prima. Non so se posso usare questo in questo periodo questo esempio, semplicemente si sono trovate massacrate in ginocchio da quello che è successo. Poi ognuno continuerà come prima a correre con le sue gambe, chi è efficiente starà in piedi, chi non è efficiente poi chiuderà. Nessuno vuole la statalizzazione del mercato, ma ci mancherebbe. Però mi sembra che molti commenti che leggo in giro sono tutti molto in punta di penna e di filosofia. Allora, andiamo invece sulle cose concrete, noi siamo un po' più prosaici. Accordi. Confindustria Bergamo ha sottoscritto oggi un accordo finanza subito con il Banco BPM, Intesa San Paolo, Ubibanca e Unicredit per agevolare e snellire, adesso cerchiamo di capire in che modo, la strada ai finanziamenti verso le aziende del territorio bergamasco. Segnalo, prima di occuparmi di questo, che c'è un altro accordo tra il Comune di Bergamo e Intesa San Paolo, il programma Rinascimento, per supportare le micro e piccole attività di imprese, piccoli esercizi commerciali artigianali, quindi non manifatturieri ma commerciali artigianali, e valore di 30 milioni di euro, prevede contributi a fondo perduto e prestiti di impatto. Il sindaco di Bergamo Gori ha detto: positiva la collaborazione con Intesa, con Intesa San Paolo deve essere un modello per tutti, e ha detto: vogliamo essere il simbolo della ripartenza del paese. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha ricordato che tra gli interventi c'è uno strumento innovativo, il prestito d'impatto, cioè uno strumento caratterizzato da lunghe scadenze e le cui risorse sono dedicate ad attività a elevato significato sociale. Chiaramente si riferisce al sistema delle imprese del contesto territoriale bergamasco. Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, buonasera. Buonasera. Presidente, allora ci racconti poi ascolteremo assieme anche Patuanelli, che ha chiarito al question time al Senato l'idea del prossimo DL maggio, speriamo che resti maggio almeno, visto che doveva essere aprile, un fondo perduto, risorse a fondo perduto, l'agenzia ha titolato fondo perduto, è un po' eccessiva la crasi, di risorse a fondo perduto per 15 miliardi. Però ci racconti prima qual è l'accordo che avete siglato e perché, al di là dell'accordo, dovrebbe avere un'operatività molto concreta. Noi abbiamo siglato questo accordo con le banche perché abbiamo fatto un'analisi 2 settimane fa delle nostre imprese associate, da cui risultava che circa la metà denunciava di non poter superare questo momento di emergenza senza aiuti. E il problema dell'implementazione di questi strumenti messi a punto dal governo sono le tempistiche. Occorre fare in fretta per fare arrivare denaro alle aziende. Quindi noi abbiamo messo a punto con queste 4 banche, ci siamo resi disponibili per interfacciare le nostre imprese, spiegare loro gli strumenti disponibili, aiutarle con un nostro tool a capire i fabbisogni finanziari e a presentare le domande alla banca, quindi portando qualche cosa di già completo, elaborato. Il vantaggio è stato anche che con le banche abbiamo accordato quelle che sono il set di documentazione necessaria. E quindi diciamo è un facilitatore, vi ponete, se ho ben capito, come facilitatore di tutta quello che è il problema grosso, la trafila anche burocratica, la chiamiamola in questo modo? Assolutamente sì, questo è il nostro ruolo, e in più abbiamo proprio concordato sia la documentazione necessaria e anche il nostro tool di previsione dei fabbisogni finanziari è stato accolto dalle banche come un predittore di quelle che saranno le necessità della banca, per cui viene accolto da queste 4 banche e questo facilita la preparazione delle pratiche. Questo snellisce una parte del processo, poi c'è naturalmente la seconda parte del processo, che è quello in capo al fondo di garanzia SACE, su cui non possiamo fare altro che auspicare un'accelerazione dei tempi. Allora sì, no, qualcuno ha capito filosofare, io ho detto filosofare, in latino è primum vivere deinde filosofari, però io ho detto basta filosofare in questo momento, ma adesso torno anche al filosofare cosiddetto. Mi dica una cosa, raccolgo alcune obiezioni che arrivano anche al 349-238-6666. Alcuni scrivono, ma scusatemi, come mai i modelli di impresa vanno in crisi per soli 2 mesi di assenza di fatturato? Vuol dire che erano fragili prima. Cosa risponde a questo, Scaglia? Ma io rispondo che comunque non è vero questo, nel senso che in due mesi di chiusura di fatturato dipende naturalmente dalla dimensione aziendale, dipende dal momento aziendale. Può essere che un'impresa fosse molto sana, ma che fosse in un momento particolare di esposizione, perché ha fatto degli investimenti, perché comunque è cresciuta di magazzino, perché comunque è cresciuta come esposizione verso i suoi clienti di capitale circolante. Quindi secondo me non è una corretta questa interpretazione, anzi le imprese che hanno più investito probabilmente sono quelle che poi in questa situazione sono trovate più spiazzate. Allora Scaglia, resti con noi perché voglio usare Bergamo, tanto perché c'è tutta la nostra solidarietà a quello che è successo in quell'area, ma per far capire anche a chi è in ascolto che cosa intendo dire su quelle che dovranno essere i distinguo, le differenziazioni che andranno fatte nella fase 3 terminata, speriamo senza intoppi, tutta la riapertura, la ripartenza, il distingue tra, appunto anche per ricollegarmi alla domanda che facevano gli ascoltatori, tra settori di imprese e altri settori. Voi come Confindustria Bergamo, come tutta la Confindustria, avete tra gli associati sia imprese manifatturiere classiche che esportano, che fanno fornitura oppure che lavorano nei distretti, ma avete anche imprese legate per esempio al mondo del turismo, penso al mondo alberghiero, nella provincia di Bergamo c'è un'importante anche realtà alberghiera e di accoglienza turistica di carattere montano. E vorrei capire, dopo il metodo e la pubblicità, se anche voi state immaginando che, superata questa fase emergenziale e quindi di consentire alle imprese di avere liquidità per scavallare questa, vi immaginate che poi alcune torneranno in tempi abbastanza brevi a, mi passi il termine, a lavorare da sole, e altre invece avranno bisogno, e qui mi collego al fondo perduto di Patuanelli, di essere ancora aiutate a non chiudere, perché lì i problemi si andranno avanti e si protrarranno per molto tempo. Dopo il meteo la risposta. Focus Economia. ...17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, il presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia, usando proprio l'immagine del suo territorio, che è fatto di manifattura classica, meccanica di precisione, prodotti finiti o invece anche semilavorati e componentistica, ma è fatta anche di un settore che forse pochi lo ricordano, insomma, che legato anche al turismo e in parte ai servizi. Voi immaginate poi una fase 3 distinta, cioè qualcuno che tornerà pur con fatica a camminare con le sue gambe e a fatturare come prima, e altri che dovranno invece essere aiutati anche nei mesi successivi? Sì, noi siamo un sistema economico fortemente integrato, nel senso che ciascun settore dipende dall'altro, quindi il settore del turismo, dei servizi, della manifattura, quindi credo che sia fondamentale tutelare la performance complessiva del sistema. Per fare questo occorre guardare le diverse esigenze delle singole, delle tipologie. Sicuramente ci sono imprese che hanno più difficoltà, e mi riferisco ai piccoli esercizi, mi riferisco a quelle legate al consumatore finale, che in questo momento stanno soffrendo di più. Lì probabilmente avendo costi di affitti, avendo costi vivi molto alti e a zero ricavi, sarà necessario pensare ad un aiuto a fondo perduto. Io credo che sia importantissimo pensare a questa fase 3, come lei sta dicendo, e in questa fase 3 sarà fondamentale un forte incentivo ai consumi. Se noi non facciamo ripartire i consumi con degli incentivi importanti, e fatti soprattutto mirando a dei settori dove abbiamo una forte caratteristica italiana, insomma, quindi sto pensando alla moda, al tessile, ad alcuni beni durevoli. Ecco, incentivando i consumi riusciamo a far ripartire il commercio, a far ripartire le imprese dietro. Dobbiamo mettere i soldi, non tanto i risparmi degli italiani, a sostenere debito pubblico, ma dobbiamo incentivare gli italiani a mettere i soldi nell'economia reale. Allora, le faccio ascoltare cosa ha detto oggi Patuanelli a Question Time sui soldi a fondo perduto che dovrebbero essere presenti nel decreto, che un importo di almeno 10 miliardi aggiuntivo ai 5. È innegabile che gli effetti del decreto liquidità scontano l'atteggiamento di alcuni istituti bancari che non stanno collaborando come dovrebbero e come potrebbero nell'erogazione delle diverse modalità di finanziamento che abbiamo individuato nel decreto stesso. Alcuni dati però è bene conoscerli, sono pervenute oltre 91.973 domande per un totale di liquidità erogata di 5 miliardi 595 milioni di euro. Questi sono i dati al 5 maggio, oltre 70.310 domande relative ai microfinanziamenti da 25.000 euro per un totale erogato di 1.486.814.500 euro. È chiaro che non tutti gli istituti di credito collaborano come dovrebbero e potrebbero, è vero però che lo strumento normativo messo a disposizione può funzionare, per tante persone sta funzionando. Non basta, è intenzione del governo, come noto, intervenire con il cosiddetto fondo perduto per un importo di almeno 10 miliardi aggiuntivo ai 5 della conferma delle misure che il Ministero del Lavoro confermerà del bonus dei 600 euro che saranno incrementati per due mensilità e quindi avremo circa 15 miliardi nel prossimo decreto esclusivamente per il fondo perduto. Allora, ci aiuta a capire un'ultima cosa, Presidente Scaglia, perché come Confindustria teme... Allora, un conto sono gli aiuti a fondo perduto per settori che in realtà vanno più che sulla manifattura, a mio avviso andranno, come diceva anche lei, sul commercio, commercio al dettaglio. Perché temete l'ingresso dello Stato nel capitale? Ma sa, noi come siamo liberisti, siamo per il mercato. L'ingresso dello Stato deve essere è funzionale a superare una certa situazione, non deve essere un qualche cosa che diventa un sistematico all'interno di un'economia. Quindi crediamo che le imprese debbano essere sostenute, che questo possa essere fatto, ma ci devono essere dei tempi precisi, delle regole precise, perché poi dopo si pensi ad un'uscita, per non finire come in un caso all'Italia, che è una storia non finita, insomma. Questo è il timore. Allora, grazie e speriamo, visto che alcuni mi segnalano, anche Patonelli l'ha detto, avete sentito, alcune banche sono più collaborative, altre sono meno collaborative. E speriamo che questo accordo appunto snellisca tutto l'insieme, diciamo, di procedure, anche funga da facilitatore. L'accordo firmato da Confindustria Bergamo con Intesa San Paolo, UbiBanca, Unicredit e Banco BPM. Grazie al presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia. Leggere però un messaggio che non è il primo che mi arriva, di nuovo l'appello al mondo bancario. Ci sono parecchi imprenditori che scrivono che la banca gli ha risposto: non possiamo concedere 25.000 euro in quanto avete già delle esposizioni e la banca non se la sente di concedere altro denaro, anche perché la garanzia dello Stato non è per noi una garanzia reale, in quanto passati due anni, se lei non ci paga, lo Stato accerta che abbiamo erogato denaro ad aziende già indebitate e ci fa decadere la garanzia. Non è possibile che ognuno interpreti questa legge come cavolo vuole, lo sportello bancario o i direttori di filiale. Mi dica di che filiale di banca è, che la citiamo. Stiamo parlando di un cliente con un patrimonio immobiliare di 800.000 euro. Allora, al di là dell'atto d'amore chiesto dal Premier Conte, che non mi è sembrata una gran frase, nessuno vuole un atto d'amore né un atto di odio dalle banche, vuole un atto di correttezza e concretezza. L'ABI ha specificato più volte, l'Associazione Bancaria Italiana, sui 25.000 euro. Non è pensabile che ogni direttore di filiale, magari su mandato del dirigente che si occupa dei crediti, la interpreti, ma dello Stato poi non so, non ci fidiamo. Ma stiamo scherzando veramente? Io dico attenzione alle banche, perché giocano col fuoco in alcuni casi. Se poi ti va giù tutto il modello di impresa, dei servizi, del commercio, dell'artigiano, della manifattura, altro che il rischio che lo Stato non te paghi 25.000 euro. Allora, le borse, le dicevo, le do al volo, perché oggi la giornata è veramente poco mossa. Vediamo però la chiusura: più 0,50 alla fine Milano, più 1,5 Parigi, più 1,5 anche Francoforte Londra, più 1,5 anch'essa. Hanno recuperato qualcosa da titoli che prima perdevano, soprattutto i bancari. Vedo che adesso infatti il calo di Intesa dell'1,1%, Unicredit meno 1,5 e Bipper meno 2,5. Resta negativa Case New Holland, CNH meno 3, Telecom meno 2,20, Amplifon meno 1,70 e Poste meno 1,60%, Era meno 1,20. Bene Nexi più 3,80%, Moncler più 2,70, Saipem più 2,60, ricordati pure Exor più 2,20, Enel più 2%. Traffico. Focus economia. Allora, cambiamo tema invece adesso, o meglio, restiamo sempre in tema di imprese, ma in questo caso di imprese agricole. Ieri abbiamo avuto ospite il presidente di Confagricoltura Giansanti, e continua a essere ancora parte della dialettica, per non dire scontro politico. La Bellanova un po' abbassato i toni, il ministro, dopo la minaccia di ieri. Però nel pomeriggio c'è stata la delegazione di Italia Viva, formata da Mariana Boschi, Ettore Rosato e Davide Faraone, che ha incontrato a Palazzo Chigi il Premier Conte. Alla delegazione si è aggiunta anche il ministro Teresa Bellanova. Stiamo cercando di capire qual è l'accordo. Adesso non ho visto altre agenzie se non quelle che vi sto per leggere, e cioè una proroga di 3 mesi del permesso di soggiorno per i braccianti a cui è scaduto il contratto come lavoratori stagionali. La misura riguarderà il settore agricolo e anche il lavoro domestico. Gli uffici legislativi dei ministeri stanno limando un testo, poi toccherà ai capi delegazione nel governo valutare se inserirlo nel decreto maggio, che andrà domani in Consiglio dei Ministri. Il Movimento 5 Stelle era contrario all'idea di una sanatoria. Italia Viva invece minacciava appunto di uscire dalla maggioranza, e ieri c'è stato un braccio di ferro molto duro tra la ministra Catalfo e la ministra Bellanova. Tra l'altro la Bellanova era sostenuta anche dal ministro degli interni Lamorgese e dal ministro Provenzano. Quindi, ripeto, se ho ben capito, si arriverà a una proroga del permesso di soggiorno per braccianti e per lavoratori domestici di altri 3 mesi. Allora, secondo varie stime si parla di circa 600.000 persone invisibili in questo momento. Secondo la CIA, gli agricoltori italiani della CIA, una sanatoria porterebbe nelle casse dello Stato entrate per 1.200.000.000. Vi era stata l'ipotesi di sfruttare i beneficiari del reddito di cittadinanza ritenuti occupabili, e secondo l'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, sono 966.000 attivabili dei 2.400.000 che percepiscono il reddito di cittadinanza, quasi 1.000.000 sarebbero attivabili, e in 700.000 di questi 2.400.000 si sono già recati nei centri per l'impiego per sottoscrivere i patti per il lavoro, e quindi sono pronti a essere impiegati. Faccio notare che la Germania, la Francia e la Gran Bretagna hanno fatto degli accordi con la Romania, lo dico in maniera più possibile rispettosa, per accaparrarsi i braccianti rumeni. È la prima comunità lavorativa anche in Italia nel settore agricolo, con oltre 120.000 lavoratori presenti. Però, dall'appunto alle varie posizioni di governo, io vorrei precipitare in senso positivo il tutto su quello che vive chi tutti i giorni gestisce, va nel campo. Allora ringrazio Floriana Fanizza, presidente di Coldiretti Donne Impresa Puglia, e anche a livello nazionale. Buonasera, presidente. Sì, buonasera, buonasera. Lei, dicevo, oltre che un ruolo appunto in Coldiretti, ha anche delle proprietà agricole. Sì, mi può dire innanzitutto che cosa è successo ai suoi terreni agricoli? Poi vediamo alla proposta. Sì, ho un'azienda agricola in Puglia, in provincia di Brindisi, e soprattutto nel primissimo lockdown, quello del 9 marzo, purtroppo a causa della mancanza della manodopera sono andati persi un campo di sedano con 180.000 piante e un campo di radici e di rape con altre 80.000 piante. Persi vuol dire che nessuno riusciva a raccoglierli? Non li abbiamo raccolti. Sì, essenzialmente questo, perché nella prima fase del lockdown nella grandissima confusione i nostri collaboratori, anche facendo fatica a trovare anche dispositivi di sicurezza, più le autocertificazioni che cambiavano ogni minuto, quindi si faceva veramente fatica a fare una programmazione e soprattutto a dare sicurezza ai nostri collaboratori. Per cui noi non ci siamo opposti alla loro scelta di non venire a lavorare, di conseguenza abbiamo perso il lavoro. Questo mancanza di manodopera, ovviamente. E questo, insomma, immagino che il suo sia un caso purtroppo non isolato. No, non è isolato, ma soprattutto non è isolato, nel senso che adesso noi ci accingiamo alle grandi raccolte, se penso alle ciliegie che saranno presto a Turi, piuttosto che fra un po' la raccolta del pomodoro, la raccolta dell'uva, sono le grandi campagne e su questo abbiamo bisogno ovviamente di manodopera, di semplificazione e di manodopera, per cui bene la proroga dei permessi di soggiorno in modo tale da evitare agli stranieri dover rientrare nel proprio paese proprio con l'inizio della nuova stagione di raccolta. È anche vero che a questo dobbiamo comunque associare una semplificazione dei voucher agricoli per permetterci ancora di più di assumere in maniera veloce la manodopera, perché la campagna non si ferma, la campagna va avanti, per cui anche una o due settimane perse significa perdere raccolto, significa perdere migliaia di euro. Senta, quindi l'ipotesi su cui sta ragionando il governo di estendere di 3 mesi il permesso, la convince, non la convince? Lei immagino parlassi di lavoratori regolari, quelli che non riuscivano poi andare... Beh, certo, parliamo della proroga dei permessi di soggiorno per il lavoro stagionale, eviterebbe agli stranieri di dover rientrare nel proprio paese. Teniamo conto che siamo all'inizio della nuova raccolta, come dicevo, arriviamo adesso alla raccolta delle ciliegie, ma la raccolta del pomodoro, la raccolta dell'uva, dove è richiesta tanta manodopera, in questo caso soprattutto manodopera straniera. E ripeto, però a questo dobbiamo anche affrontare e affiancare il concetto della semplificazione dei voucher agricoli. Voucher. Invece l'idea di utilizzare parte almeno, insomma, dei 700.000 percettori del reddito di cittadinanza che hanno già firmato il patto per il lavoro su 2.400.000, come citavo prima, la convince oppure no? Guardi, in realtà io credo che in una situazione di emergenza nazionale che stiamo ovviamente vivendo un po' tutti, quando noi diciamo che serve una radicale semplificazione del voucher agricolo, significa anche che questo possa consentire anche velocemente ai cassi integrati, agli studenti, ai pensionati, di poter comunque andare a lavorare nelle campagne in un momento in cui peraltro le scuole sono chiuse, le attività economiche sono chiuse, le aziende sono chiuse, fanno fatica soprattutto a riaprire, per cui ci potrebbe invece in realtà essere un'occasione di integrazione del reddito agricolo sostanzialmente, e soprattutto si darebbe anche la possibilità alle attività della campagna di non fermarsi e di non vedere i propri prodotti, come è successo a me, marcire appunto nei campi. A questo punto che tempi avete? Perché lei giustamente ricordava che le stagioni dell'agricoltura non è che possono aspettare i DL del governo. Che tempi avete? Sostanzialmente, prima che la situazione diventi difficilmente recuperabile. Guardi, la campagna delle primizie è già cominciata. Parlo della campagna, per esempio, dei piselli verdi, delle fave novelle è già cominciata, per fortuna che ci sono state le gelate, non so se per fortuna o sfortuna, le gelate di aprile che hanno calmierato anche la produzione, per cui non c'è tantissimo prodotto. Però abbiamo tempi brevissimi perché adesso maggio si comincerà la raccolta delle ciliegie e soprattutto tra la metà di giugno e gli inizi di luglio si comincerà con la raccolta del pomodoro, poi a seguire l'uva, quindi non abbiamo tantissimo tempo da dover impiegare. Peraltro invece in questo periodo è il periodo delle nuove semine, per cui anche là c'è necessità di integrare manodopera per i nuovi impianti. Allora, ho visto che il vertice nel frattempo è terminato, quello con Italia Viva, ma è, diciamo così, propedeutico a un accordo anche appunto sul tema del lavoro agricolo, che è stagionale per sua definizione, ecco perché dicevano un po' aspettare i tempi, stagionale come altri settori, ci mancherebbe. È terminato, visto che Rosato poco fa è uscito, eccolo qua, presidente di Italia Viva Rosato, Ettore Rosato, ha detto: è stato un incontro positivo, nelle prossime settimane lavoreremo con il presidente Conte per definire le priorità per la ripartenza del paese. Sì, non metterci troppo tempo, serve un piano shock per l'Italia, e devo dire che su questo siamo tutti d'accordo. Nel ringraziare e augurare in bocca al lupo a lei e a tutti gli agricoltori italiani, non solo pugliesi, siamo partiti dalla Puglia perché chiaramente al sud l'attività inizia delle volte anche prima, grazie appunto a chi rappresenta tra l'altro il mondo delle donne in agricoltura. Si parla tanto di donne, poi noi cerchiamo di parlare con quelle che concretamente lavorano. Grazie a Floriana Fanizza, presidente Coldiretti Donna Impresa Puglia e Nazionale. Ci stanno uscendo già i dati della Lombardia, poi avremo il dato definitivo, mentre il quinto giorno senza decessi in Sardegna. La Lombardia ha avuto invece un aumento decessi di 134, inferiore a quello di ieri, 222, calo dei ricoveri non in terapia intensiva, meno 231, e mentre stazionari quelli in terapia intensiva, dato la Lombardia, essendo più basso di ieri, dovrebbe poterci dire che anche il dato complessivo sui decessi sia più basso rispetto a quello di ieri, che era tornato, ahimè, sopra i 300 al giorno. Ne parliamo dopo GR24. L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Burro Superiore Fratelli Brazzale, dalla filiera ecosostenibile, il sapore della felicità. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a 2didenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso andiamo a commentare i dati diffusi oggi dalla Protezione Civile, come ogni giorno a quest'ora, ahimè da quando è iniziata l'emergenza della pandemia coronavirus. Dunque, i dati oggi, dico come titolo, sono migliori di quelli di ieri, soprattutto su un fronte, i decessi. Chiaro che i 274 decessi in più sono ancora un numero altissimo, però segnalo che ieri ce n'erano stati 369, poi si è scoperto che in realtà c'era stato un conteggio, cioè si erano sommati altri decessi non conteggiati, soprattutto in Lombardia. Però oggi sono 274, un livello più alto di quello dall'inizio settimana, da domenica, ma più basso della media della settimana scorsa. Per quello che riguarda i positivi sono meno 1904, con un calo del 2%, i guariti sono 3031, ieri c'era stato un record 8000, ma comunque il dato è buono, più 3,3%, un dato forte anche rispetto alla media delle ultime settimane. Il totale dei contagiati fa più 1401 persone, sapete che porta il numero complessivo a 215.858, quindi il dato tra gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, 1400 in più rispetto a ieri. E le terapie intensive sono scese dell'1,7%, 22 terapie intensive in meno, e anche da questo punto di vista il dato è importante. E i ricoverati totali sono scesi del 3,6%, anche qui meno 617 persone, quindi i decessi salgono a questo punto a 29.958 con i 274 in più. Ricordo che l'Italia in questa lugubre classifica è scesa al terzo posto dopo Stati Uniti e Gran Bretagna come numero di decessi. Come numero di contagiati complessivi siamo invece al terzo posto dopo Stati Uniti e Spagna. Vedremo poi anche i dati degli altri. Mi sembra di poter dire che dopo la fiammata di ieri, ripeto, frutto anche di un elemento di calcolo, i dati siano tornati su un livello più simile a quello dei giorni scorsi. Certo, vorremmo vedere i decessi scendere anche sotto quota 200 e poi arrivare anche sotto quota 100. Ad ora il dato più basso sui decessi è quello di domenica scorsa, però sappiamo che la domenica è sempre un giorno un po' particolare sul computo, diciamo quello di lunedì, con 195 decessi. Allora, abbiamo parlato con chi rappresenta gli industriali di Bergamo, della provincia forse più massacrata in assoluto a livello anche in proporzione dal coronavirus, l'accordo con il mondo delle imprese e il mondo bancario. Abbiamo ascoltato un'imprenditrice nonché rappresentante di Coldiretti dalla Puglia sulle esigenze, il tempo che stringe, visto che appunto l'agricoltura è stagionale. Tutto questo ci porta ai temi sulla fase 2, cosiddetta la fase 3, insomma la rivedremo dopo, perché l'Istat oggi fa notare che dal 4 maggio, cioè da quando hanno riaperto numerose attività, ci sono ancora però 800.000 imprese, una su 5, il 19% del totale. Prima erano una su 2, per cui è migliorata la riapertura, ci mancherebbe, con la riapertura del 4 maggio, però ancora dal 48% di attività sospese siamo ancora un 19% delle attività sospese. Tradotto in occupazione, se prima non lavorava il 43%, adesso c'è ancora un 16% che non lavora, escluso il settore finanziario, qui ci occupiamo di industria e servizi. Questa è la nota dell'Istat. Le stime di Confcommercio sono, per quello che riguarda Confcommercio Milano, Monza, Brianza e Lodi, pagheranno i negozi chiusi circa 5 miliardi di euro in meno di volume d'affari, 40% in meno, 4 miliardi soltanto a Milano, e Confcommercio stima almeno il 25% di chiusure, cioè rischiano di non aprire i 3.700 imprese. Una cosa la voglio dire prima di passare al nostro ospite. Dunque, la multa di ieri. Io capisco tutto, perché ieri cosa è successo? C'erano dei commercianti, ristoratori, gestori di bar che avevano portato all'Arco della Pace a Milano decine di sedie vuote per protestare contro le chiusure. Visto che erano oltre una cinquantina, la polizia li ha multati per aver violato le prescrizioni per il contenimento del Covid, perché costituivano un assembramento, con una sanzione di 400 euro. Ora, per carità, la legge va rispettata sempre, non voglio iniziare con il distinguo, però occorrerebbe anche, non so, non c'era veramente altro modo se non arrivare alla multa? Non si poteva cercare di avvisarli prima, attenzione che vi diamo la multa, non potete, perché in questa situazione caotica, cioè non mi sembra un assembramento di chi volesse a tutti i costi violare il DPCM, c'era una protesta di carattere politico, comunque di un settore importante, si possono fare gli avvertimenti, perché allora voglio dire, se no tocca ricordare quanti runners girano per questa città senza mascherina e magari non rispettando le distanze di sicurezza. Allora, erano dei commercianti, ristoratori e gestori di bar che stavano protestando. Secondo me è giusto ricordare che se avessero continuato partiva la multa, dare a prendere i nominativi e poi dargli la multa, dai, perché invece che delle sedie c'erano le persone, ho capito, per favore. Vabbè, detto questo, mi sembra ogni tanto l'eccesso di zelo è sempre dietro l'angolo, ringrazio per averci raggiunto in collegamento uno dei rappresentanti della task force per la fase 2, quella non chiaramente scientifica, ma quella diciamo tecnica, quella guidata da Colao, nonché nostro ospite già altre volte in quanto è stato presidente dell'Istat e ministro del lavoro, Enrico Giovannini, buonasera. Buonasera. Lei è anche portavoce di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Le chiedo ancora un minuto di pazienza, ho il traffico, poi vorrei capire, alla luce anche delle richieste delle regioni, se veramente, anche insomma, come vostra valutazione, si possa ragionare su dal 18 maggio di una fase 2 differenziata per regioni. La Francia lo ha già fatto, ha diviso il paese in aree verdi, arancioni e rosse, tant'è che anche sulla riapertura delle scuole, leggevo prima, l'Île de France, cioè la zona di Parigi, che è una delle quelle più colpite in Francia, non riaprirà le scuole, per esempio medie o le scuole superiori come altre aree del paese. A me, più che delle scuole, che tanto che ho capito non riaprono fino a settembre, interessa capire la riapertura degli esercizi commerciali. È molto richiesta questa cosa da alcune regioni, devo dire, quando vedi che la Sardegna o l'Umbria sono a decessi zero da giorni, non puoi dar torto alle regioni che hanno una situazione diversa, per esempio rispetto a quella lombarda o piemontese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Mi scrivono anche al ponte di Genova non più di 50, ma infatti è un eccesso di zelo, bastava mettere in guardia, avvertire, mi riferisco ai commercianti e ristoratori di ieri, dai, per favore, non facciamo chi fa il forte, scusatemi, con i deboli, il debole con i forti. Allora, Giovannini, a supporto di quello che stavo dicendo, è appena arrivato il dato della Protezione Civile, anche oggi per il terzo giorno consecutivo più del 50% del totale dei nuovi contagiati si trova in Lombardia e quasi il 50% delle vittime si trova in Lombardia anche oggi, 134 su 264 quanto a vittime e 720 contagi su 1400 contagiati in più in tutto il paese. La Lombardia è l'unica regione con Marche e Valle d'Aosta che non fa segnare un calo degli attualmente positivi. Tutte le altre regioni del nord, non dico quelle del sud, figuratevi, sono in calo. Che cosa rispondere o cosa ne pensa della posizione di molte regioni, penso a Zaia, pronti a aprire tutto anche prima del 18 maggio, Toti che dice che le regioni chiedono la riapertura dei negozi addirittura prima dell'11 di maggio, ha un senso diciamo il modello francese, se vogliamo chiamarlo francese? Regioni, mi dispiace, io non posso rispondere a queste domande. Perché siete tenuti? Perché abbiamo delle elementi di riservatezza, impegni di riservatezza sull'attività della task force. Quello che posso dire è che nel lavoro della task force, che non ha preso nessuna decisione, Vittorio Colao lo ha chiaramente indicato anche nei colloqui con la stampa, ma ha preparato una serie di dati, di informazioni, ha connesso una serie di attività che venivano svolte da varie istituzioni. Dicevo, in questo lavoro abbiamo mostrato come il monitoraggio continuo, tempestivo delle situazioni anche territoriali va usato per prendere le decisioni, non solo nella fase di riapertura, il governo poi ha scelto quello che ha scelto, ma anche nelle eventuali fasi di richiusura. E qui c'è una differenza molto importante, perché il Comitato Tecnico Scientifico ha identificato tutta una serie di indicatori per procedere eventualmente a richiusure localizzate. La logica indicata dal Comitato Tecnico Scientifico è molto chiara: con la circolazione delle persone, con la ripresa delle attività, la probabilità che i contagi aumentino cresce, bisogna lavorare per disaccoppiare, cioè per tenere distinti i numeri sui contagi dal numero dei decessi, per questo tutto il lavoro sul settore sanitario, ma poi il governo deve essere pronto a richiudere laddove necessario, usando un monitoraggio molto dettagliato, così da ridurre al minimo l'impatto di un'eventuale decisione di questo tipo su settori o aree territoriali dove non si verificano quei fenomeni. No, io non voglio, per carità, che lei vada a violare il patto di riservatezza che avete firmato come membri del comitato, però è già importante quello che lei ci ha ricordato, quindi insomma, attenzione, esiste una non solo gradualità ma anche modularità da regione a regione e con dei parametri da seguire, non è che ci sia una regione indicata su altre. Per tornare a delle eventuali chiusure, noi speriamo di no, ma chiusure mirate. Senta Giovannini, invece, per quello che riguarda il tema lavoro di cui lei si occupa da anni, al di là dello sviluppo sostenibile, lei invece che da economista ragiona anche su una fase 3, lasciamo stare adesso la fase 2 delle ripartenze regione per regione, di quello che Boccia oggi il ministro per inciso ha aperto sull'idea che il 18 vi possono essere delle differenziazioni. Dall'11 maggio, ha detto il ministro Boccia, vi sarà l'esame dei dati del monitoraggio del Ministero della Salute sul contagio. In base a quelli, dal 18 maggio sarà possibile fare differenziazioni regionali nella riapertura, anche in base alle linee guida dell'INAIL. Però sul futuro, torno alla domanda con cui abbiamo aperto il programma, lei è dell'idea che, superata la fase emergenziale anche economica, e quindi il bisogno di liquidità per pagare i fornitori, la cassa integrazione, le imprese che hanno anticipato la cassa integrazione quando era ordinaria e avranno poi si arriveranno sull'INPS, la liquidità che in alcuni casi non sta arrivando alle imprese, con l'accusa che alcune banche mettono più ostacoli rispetto ad altre, anche il sovraccarico di lavoro dell'INPS sui 600 euro e sulla cassa integrazione in deroga. Però, superata questa fase, diciamo, secondo lei sarà necessario andare a distinguere, in questo caso non tra regione e regione, ma tra settore di impresa e settore di impresa? Perché adesso siamo tutti, diciamo, livellati dal lockdown e dalla chiusura complessiva. Però io immagino una fase, superata questa due, in cui bisognerà andare, a mio avviso, nello specifico tra settore e settore. Certamente è un tema che penso sia ben presente al governo e vedremo quello che tra qualche giorno sarà contenuto nel prossimo decreto legge, che non sarà, spero, solo di protezione, di un decreto difensivo, ma contenga anche norme per il rilancio dell'economia, anche perché se no rischiamo di finire tutti i soldi per ridurre la caduta della V famosa e poi rischiamo di non avere fondi per far ripartire le imprese che non avranno chiuso. Questo tema della riorganizzazione del sistema produttivo è un tema molto importante. Vorrei ricordare che sono state anche sospese le regole di applicazione degli aiuti di Stato, certo. E ci sono alcuni paesi come la Germania, l'ho ricordato la stessa Presidente della Commissione Europea, che stanno usando quel meccanismo per salvare grandi imprese diciamo del settore privato, ma importanti, strategiche. Ma poi avremo il tema delle piccole, piccolissime imprese. Se in questo momento io dovessi scommettere, e per fortuna non lo devo fare, credo che ci sarà una crescita della dimensione media delle imprese. Forse questa crisi tra tanti cambiamenti che indurrà, forse spingerà molti piccolissimi imprenditori che sappiamo hanno culturalmente anche molta resistenza a mettersi insieme ad altri per diventare più grandi, forse cambieranno atteggiamento. Il nanismo, soprattutto in alcuni settori delle nostre imprese, è un fattore di debolezza del settore dell'economia italiana. Quindi forse non solo sopravviveranno le migliori, ma sopravviveranno anche quelle che sceglieranno, magari mettendosi insieme, di sfruttare economie di scala, anche per esempio nel rapporto con il mercato del credito. Ecco, su questo lei distingue, diciamo, per tipologia di dimensione di impresa, ma ritiene che invece vi sia anche una distinzione da fare più avanti come aiuti, per settori di impresa? Traduco, dicevamo prima col presidente Confindustria Bergamo, magari la manifattura tipicamente del nord, ma non solo, anche delle Marche, dell'Emilia Romagna e di altre parti del centro-sud, magari riuscirà a recuperare quote di mercato se riparte l'economia in generale, sui beni durevoli, sulle forniture, sulle subforniture, sui semi lavorati, insomma. Altra cosa è a mio avviso il mondo del commercio e del commercio legato ai comportamenti culturali, bar, ristoranti, locali ludici, teatri, cinema e quant'altro, e poi del mondo del commercio legato al turismo, perché noi non solo non vedremo gli stranieri con molta probabilità quest'anno, ma abbiamo anche difficoltà a capire quali e quanti italiani vedremo. E lì però non si può solo dire andiamo verso una selezione naturale, perché è un po' diverso rispetto a un settore che magari riparte con le sue gambe e poi ok, qualcuno farà aggregazioni per avere maggiore massa critica. Lì rischiamo che la selezione naturale sia una livella, ma per dirla come quella di Totò, Giovannini. Assolutamente d'accordo, ed è proprio perché questa non è una crisi classica, ma è una crisi in cui i comportamenti anche di noi consumatori sono destinati a cambiare in profondità. Anche qui però ci sarà un cambiamento forse nella direzione di evitare scelte anche nel turismo di massa, mettiamola così, a favore magari di aree interne del paese che sono ugualmente molto apprezzabili, ma che sono abbastanza sconosciute ora. Tant'è vero che qualcuno dice anche quest'estate si sceglieranno mete in funzione del distanziamento e quindi si andrà più verso l'interno, meno sul mare. Quello che intendo dire è che abbiamo bisogno, come lei diceva giustamente, di capire un po' dove vogliamo essere tra un anno, due anni, al di là della difficoltà congiunturale. Il rischio di una debolezza strutturale a causa del prolungamento per alcuni settori in particolare della sparizione della domanda è un problema estremamente serio. Qui mi faccio dire due cose. La prima, ci sono investimenti che possono servire a tutti, una per tutti, il tema della banda larga. Proprio in questi giorni il comitato sulla banda ultralarga ha concluso, leggevo proprio solo 24 ore, i suoi lavori, sbloccando forse una serie di finanziamenti che sono fermi lì da anni. Quelli possono servire alle imprese, alle scuole, al turismo. È l'infrastruttura tanto importante quanto treni e autostrade. Mi dice la seconda, perché sto per chiudere, non per altro. La Giovanni. Seconda è molto semplice: se vorremmo incentivare quei settori che creano occupazione o se vogliamo andare verso settori più classici. Lo dico sempre, immagini, è una provocazione, lo so, 19 miliardi all'anno di sussidi dannosi per l'ambiente, immaginiamo di trasformarne una parte in abbattimento del costo del lavoro permanente. Questo vorrebbe dire penalizzare i settori che consumano energia, ma favorire quelli che creano occupazione, che guarda e sostenibilità caso, economica è proprio quello anche, che bisogna fare. Anche nel futuro. D'accordo con lei su questo, devo dare una notizia flash, perché l'ordine del giorno della conferenza delle regioni ha detto che sono stati sottoscritti i protocolli per l'individuazione delle misure di sicurezza. Insomma, le regioni chiedono che entro il 17 maggio varare un nuovo DPCM sulle aperture e dall'11 maggio consentire la riapertura dei negozi, fermo restando la sottoscrizione prima dei relativi protocolli di sicurezza con le parti sociali. Grazie anche Enrico Giovannini, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.